784. Ponce alla parigina. Questo è un ponce corroborante che può venire opportuno quando fra un pasto e l'altro vi sentiste mancare lo stomaco. Prendete una tazza del contenuto di 2 decilitri circa. Frullateci dentro un rosso d'uovo con 2 cucchiaini di zucchero, durando finché sia divenuto quasi bianco. Aggiungete allora, dosandolo a piacere, 2 o 3 cucchiaiate di cognac, di rum o di altro liquore che più vi gusti, e riempite la tazza di acqua bollente versata poco per volta, continuando a frullare per fargli fare la spuma.